programma è in collaborazione con stymusic.com. Viaggi del lupo. E si torna in onda dopo una lunga settimana lavorativa tempestosa, però con tanto sole. Noi siamo di Wolf Trips, io sono Domenico alla regia e poi abbiamo la Cree dall'altra parte dello speaker. Quindi, ciao a tutti ragazzi, sì, stasera siamo per adesso solitari, sì. Tra qualche minuto dovrebbero arrivare anche i nostri compari di avventure. Ok. Dicevo, mi viene sempre da dire dall'altra parte del vetro, perché una volta era sempre dall'altra parte però del vetro. Però c'è ancora il vetro. Sì, il vetro c'è ancora. Noi lo potete vedere. Però guardate abbiamo la diretta Facebook. Sì, giusto, dai un po' i contatti. Allora, ci potete vedere su Facebook. Ma non ascoltare la musica, ve lo dico. Con la diretta però non si può ascoltare la musica. Abbiamo la censura solo quando noi parliamo. Giusto. Poi ci possono contattare sui vari social, Instagram, Facebook. Diciamo che siamo molto social grazie a Katia, che la salutiamo. Stasera doveva esserci Sara, una delle due, ma niente, si sono perse entrambe. Tra l'altro si è materializzato dietro l'altro vetro il nostro compare di avventure, in ritardo. Vabbè, e dai. E niente, poi ci possono scrivere al numero 340-136-17. Sì. Tramite WhatsApp, mandarci audio, video, foto, tutto quant'altro. Quello che vogliono. Va bene, dai, iniziamo subito con oggi cambiamo, torniamo un po' alle origini di Wolf Trips, perché siamo partiti da qua, da dove stiamo tornando adesso. Ci siamo spostati sulle net label, adesso abbiamo mischiato un po' di net label e un po' la musica sempre underground, elettronica, però diciamo anche un po' più, diciamo un po' meno proveniente dal mondo del net label e un po' più proveniente un po' dal mondo dei blog musicali. Ah. E la musica, tra l'altro è un po' di selezione l'hai fatta anche tu, quindi poi noi vediamo. Svegliamo questi segreti, dai. E un altro po' di selezione l'avrà fatta Tony, che adesso dopo lo vediamo e ci chiederemo direttamente a lui. Il primo brano non mi ricordo se l'avevo scelto io o l'avevi scelto tu, comunque in ogni caso è il brano di Amtrak, giusto, Amtrak. E lui è di Morehead, Kentucky. Vabbè, niente, andiamo ad ascoltarcelo. E comunque sarà una playlist molto varia. Speriamo non una variata, dai. Vediamo un po' com'è l'inizio e poi dopo vediamo anche come il proseguio. si attardano ad arrivare, si attardano a mettere le cuffie, entriamo noi. Insomma, ecco. No, stanno arrivando. No, arrivano, vieni Deborah. Vai Tony, che ce la puoi fare, slega. È arrivata anche Tony e la Deborah. O la Tony e Deborah. Tony mi sembra un po' in difficoltà. No, la Tony no, prego. No, stai attento con quelle cuffie lì, perché le ultime volte poi sei uscito sempre con un occhio nero, quindi stai molto lontano e molto attento. E non gliel'ha fatto Deborah, infatti, gliel'ha fatto la cuffia. Vabbè, abbiamo ascoltato il brano di Amtrak con Just. Ora. Just? Cosa vorrà dire ora? Just. Cosa vuol dire, Tony, l'esperto? Dai, espertizzati. Può avere vari significati. Soltanto, appena. Ora, no? Just now? Sì. È un rafforzativo. Sì. Ecco. Sì, infatti. Devo trovare la sigletta, quella tipo, non lo so. Questa qua, vabbè, è carina, dai, mi piace la sigletta qua. Vabbè. No, devo trovare tipo la sigletta quella tipo, che so, sai, le lezioni di inglese. Sì, con le voci da bambino. Sì, the table. Sì, bravo. Lesson one. Vabbè. Comunque, ho anticipato che siamo tornati un po' agli antipodi di Wolf Trips, cioè proprio quando eravamo. E quindi la prima parte abbiamo selezionato un po' di brani. Io la Cree, che si è trasformata in una selezionatrice. E la seconda parte invece sì, della... ma non dirlo, cioè non no, è che io lo dico e lo continuo a dire. Direttore artistico di Wolf Trips di la prima parte. E invece la seconda parte la gestirai tu. Ahia. Vabbè, niente, era così. Vabbè, dai, andiamo a ascoltarci il prossimo brano, così dopo siamo a posto, no? Sì, direi che siamo tutti pronti, perché i social sono online. I sorci sono online. Stranamente funziona anche bene la webcam stasera. Cioè siamo una diretta cosa, anche webcam. Siamo una diretta webcam. È una cosa molto strana. Tra l'altro, anche dalla pagina Facebook di Wolf Trips. Quindi, Tony, occhio che ti vedono tutti. Volevo farmi la barba stasera, veramente. Porca miseria. Va bene, dai, continuiamo con il prossimo brano, che dovrebbe essere tra l'hip hop e il rap. Che comunque alla fine della fiera potrebbe essere la stessa roba. Che il tag c'era scritto hip hop. E io quello ho tirato fuori di nome. Si dice la E in and commerciale and uguale and. Yes. Questa è una roba informatica, quindi è mio pane. Quindi il brano si chiama Designer con Soul. Non ci voglio di leggere il resto, poi lo mettiamo nella playlist, dai. But take off the clothes. I like it when she get up on the pole. I got a order, a bottle of rose. I got holes. Get them wet, get them froze. Keep on bouncing on that pole. Come with me, I take it slow. Come with me, I got the dough. You come with me, on the road. You come with me, I'm in that pussy. You come with me, I take it slow. You come with me, I got the ice. You come with me, you pay the price. You come and you get it tonight. I make you have a good night. Get out my way, everyone move, get out my way. They try to shelve me, had to go get the cane. Thank God I'm wealthy, I could pay anyway. This ain't a dish, but I'm feeling away. I sold 20 minute singles, and stack them up like they Pringles. As soon as I walk in the place, got bitches that ready to mingle. She put it all in my face, she said her pussy a tingle. I had the eye on the board, cause some of these niggas be wrinkled. I don't know nothing but hoes, I don't know nothing but take off the clothes. I like it when she get up on the pole. I gotta order a bottle of rose. I got hoes, I got O's. Get them wet, get them froze. Keep on bouncing on that pole. Come with me, I take it slow. You come with me, I got the dough. You come with me, on the road. You come with me, I'm in that pussy. You come with me, I take it slow. You come with me, I got the ice. You come with me, you pay the price. You come and you get it tonight. I make you have a good night. Vabbè, era un brano un po' così, un po' moscerino. Non so chi è che l'aveva scelto questo. Ricordava un po' Post Malone. Sì, ma un po' proprio Malone questo. Ricordarmi tutte le canzoni. No, non ne ho ascoltate veramente tante. Quindi avremo un po' di canzoni anche per i prossimi brani. Però non mi immagino un pezzo scelto da lei questo genere qua. No, no, vabbè, ma io gli ho dato, gli ho detto, guarda, cerca su questo sito qua, vai e divertiti. Cerca e diverti. E lei ha cercato un po' di brani, quindi ci sta. La prossima mi sa che è opera mia. Sì, potrebbe essere, potrebbe essere. No, vabbè, ma prima di passare al prossimo pezzo, non lo so, cioè, come, non lo so, io non so cosa dirti. Boh, non lo so. Beh, cambiato il mese, primo marzo. Infatti, non veramente sono. Anche se sembra il primo giugno. Sta sempre più caldo. Sì, per la tua gioia, anche no. Mamma mia, no, beh, non male, si, dai. Si muore di caldo, effettivamente si muore di caldo. Ma pure qua dentro, No, qua si sta bene. Pensavo peggio stasera qua dentro. No, si sta visto bene. Visto, no, per la giornata di calore. Ma tu sei stato qua in radio altri giorni? No, in questi no, giorni no, qua, no? Quindi non è un paragone con altri momenti. Va bene, va bene. Chissà se anche i nostri amici tipo di Porlezza hanno freddo, caldo, chi lo sa. Ce lo diranno magari settimana prossima. Beh, montagna di giorno mi sa che fa tanto caldo anche lì. Allora niente, è scoppiata diciamo la primavera ormai. Diciamo non so che... se ormai è ancora, sì, ancora da considerare primavera, però vabbè. Diciamo inverno-estate. Sì, sì, dai, ecco. Ci sta. Va bene, adesso invece lanciamo allora questo brano che aveva una copertina strana. Se non so se è la cantante, sta tizia. Sembra di plastica fatta lucida. In questa immagine. Lucida, lucida. Allora, il brano è di Gabriel Garzon Montano. Che... Plus Little Sims. Plus Little Sims. Che è proprio la cantante ed era quella che stavamo guardando l'immagine, che sembra un po' di plastica o comunque acetata. Sembra acetata. Il brano si chiama Bombo. Ed è di Fabrica Remix. Tra l'altro devo dare una notizia. Una delle nostre collaborazioni, intanto che parte il pezzo, ho scoperto, e non lo sapevo, che il Viva Mag ci ha pubblicato in cartaceo uno degli articoli che avevo fatto tempo fa. Wow. We telling me you wanna make memories, you wanna eat mangoes under a tree and build a couple zoops, get hella deep. Feel my energy. Where are you at mentally? My intuition is telling me go with the feelings, that's true unintentionally. Be a friend to me. I listen when you tell me stories about what you've done been through in life. Look what you did in your life. When you reminisce, look what you did in your time. I'm just reserved, never shy. Love when you speak from the heart. Love when you smile with your eyes. There's nothing here to disguise. We know the meaning of trust, cause we never built this on lies. Here there's nobody but us, and it's only you on my mind. They might mistake this for loss, but they'll never get how we vibe. They'll never get how we, they'll never get how we vibe. They'll never get how we vibe. They'll never get how we, they'll never get how we vibe. They'll never get how we vibe. They'll never get how we, they'll never get how we vibe. They'll never get how we vibe. You align in my stars, speaking to you through my art. The stage is really a bypass. You came to me at a point I didn't expect in my 23 years being here. Trying to see more than the ICs. Ocean tearing my seas. God knows I'm a Pisces. To the T, never knew why. But it makes sense when I think about you and I. I've been on a search trying to find way more than I was ever taught in life. Made more out of the cards I've been dealt with. We pour up and chase to more life. Me being up and result with some more eyes. More press, no soul less, but no stress. Oh yes, it's your turn to go next. Help me understand this in context. Help me understand you. Even more depth, deeper than what you show on the surface. Getting to the core is always worth it. Getting to the truth is always worth it. Need a break from this, I've been working. Only you can fill this space. Oh my God. Brought the sea upon these bones. We get some light trampolines. One more body down on the road. As they seem, landscape full of greenery. Ain't so pretty as it seems. Summer flowers, autumn leaves. Ain't so pretty as it seems. Ain't so pretty as it seems. Forbidden fruits and golden trees. Ain't so pretty as they seem. Landscape full of greenery. Ain't so pretty as it seems. Summer flowers, autumn leaves. Ain't so pretty. pretty as it seems. Ain't so pretty as it seems. Forbidden fruits and golden trees. Ain't so pretty as it seems. Landscape full of greenery. Ain't so pretty as it seems. Summer flowers, autumn leaves. Ain't so pretty as it seems. Ain't so pretty as it seems. Così è così, non era carichissimo, devo dirti la verità, non mi ha entusiasmato, pensavo un pochettino più, con un po' più brio. Beh, bisogna, te l'hai ascoltata in momenti di relax. Sì. No, ma è vero, cambia anche il modo è vero, di percepire la musica. È vero, sono se d'accordo. Di mattina magari ti prendi una bella cosa carica, invece sono la sera. Pomeriggio, verso sera un po'. Beh. Già dal pomeriggio, no? Magari dalle 17. No, pomeriggio, no, pomeriggio ma ci sta... verso sera, cos'è? 17? Sì, sì. Tardo pomeriggio. No, era anche dopo le 17. Sì. Stava dormendo? Sì, stava addormentando. Infatti sono arrivato e gli ho fatto un caffè perché sennò non si svegliava più. È strano che di solito chi dorme è un altro. Dunque vuol dire... E invece vi devo assolutamente smentire, perché non è così, non è più così. Dal primo marzo cambia tutto. Dal primo marzo cambia tutto, sì, 2013 però. Ah, ok. Quindi... Bell'anno. Sì, sei confuso. 2080 fiducia che lo farai. Infatti. Comunque, stavo guardando un po' le notizie di questa settimana, perché, vabbè, ci sono state notizie brutte, sai che ormai c'è l'elenco degli artisti che ci lasciano. Sì. Porca miseria, non... Talk non ti dice niente. Ah sì, ma sembra che tutti conoscevano questo gruppo. Talk sì. Sì, ok, no, ma il fatto è che lui ha fatto... No, lui non sapevo, cioè, io cioè il gruppo è famoso solo per due canzoni, che hanno fatto 4-5 album. Però tutti che... Ma c'è questa ipocrisia. Hanno fatto le due canzoni che sono il simbolo degli anni 80. Ma tra l'altro sentivo anche forse il batterista o il bassista dei Eye of the Tiger. Dei Survival. Dei Survival, ecco. Okay. La canzone. Vabbè, sentite. E così. Poi anche a proposito di cinema, c'è stato l'Oscar al finto Freddie Mercury. Finto. Vabbè. Sì. Sono molto in polemica su questa cosa. Vabbè, dai. Non stiamo ad approfondire troppo. No, ha fatto anche l'Oscar, giusto per rimanere in tema di Oscar e musica. Invece del film, quello che ha fatto Lady Gaga. Uh-huh. A Swallow, la canzone si chiama. No, aspetta. Sì, il singolo. No, io dico il film che ha fatto Lady Gaga. Bravissimo. Azul non è di... Azul, sì, non mi ricordo il titolo esattamente. Prodotto da Mark Ronson, grande produttore. Va bene, dopo questo super excursus, teniamoci qualche altra news per dopo. Sì, che cazzo diciamo. Infatti, no, ancora è lunga la puntata. E invece facciamoci un giro... Possiamo salutare gli amici di Venezia. Ah, sì, sono nel periodo giusto. Carnevale, adesso non so quando la trasmissione... Martedì pomeriggio. Comunque martedì grasso è possibile. Può essere, sì. Confermo, Star is Born. Ah, Star is Born. Beh, niente, visto che abbiamo fatto un po' di excursus sulla musica, facciamo anche un excursus musicale. Adesso mi devo riprendere i due appunti che mi ero presi. Il prossimo pezzo è un remix di un DJ, produttore di Oslo, che si chiama Todd Tergi, che non è... sembra un po' un gioco di parole con qualcuno più famoso. E il brano è... ci ha giocato, Sì, un pochettino sì. Di Joachim con Nothing Gold, Todd Tergi Remix. Giusto. Tra l'altro il... la copertina, cioè Gold, cos'è che aspetta? Nothing Gold. È molto particolare la copertina, perché cioè, sarà tipo lui con degli occhiali. Dovrebbe un essere po'. Niente oro. Sì. È bella la copertina. Molto bellina. Sì. Vabbè, andiamo ad ascoltarcelo. We'll be right back. Trips. Bel pezzo che... Chi è, l'hai scelto te o... No, questo l'ho scelto io, uno di quelli che mi piacciono di più questo periodo, dai, mettiamola così. Ma io direi che facciamo come i programmi quelli seri, no? Giusto? Sì, un momento di pausa. Ci fermiamo un attimo per un po' di... pubblicità. Torna il venerdì Wolf Trips. I viaggi del lupo. Il programma dedicato alla musica del futuro. Dalle 20 alle 22 preparatevi per due ore di musica underground. Questo programma è in collaborazione con stymusic.com. Questo è più da aperitivo, secondo me, no? Come brano? Sì. Voi che ne pensate? Sì, sì. Quelle stavano già dormendo, quindi non è post aperitivo. No, stavamo parlando tra di noi. Sì, sì, lo so, lo so. Tra l'altro il brano si chiama Crack e Smack. Crack e Smack. E si chiama Dolce Far Niente, quindi è per quello che dicevo, magari stanno per dormire. Sì. Sì. Ci sta, bello, bello. È un genere più sul funky, boh, non so diciamo come definirlo. Diciamo che oggi non abbiamo nulla da stuzzicare. Da mangiare. E da bere, quindi. Vabbè, non è che può essere sempre Natale. Sì, ci dobbiamo inventare gli ospiti per farci portare da mangiare. Da mangiare. Vero. Ma possiamo chiamare come ospite quello... Chi? Pizzaiolo. Quella non è brutta idea. Io farei le prossime puntate di Wolf Trips, invece che fare il viaggio nella musica, farei un viaggio nel mondo del, diciamo, cibo. Del cibo, delle attività commerciali alimentari. E niente, inviterei praticamente tutte le varie pizzerie una dopo l'altra, quindi... Ma va bene anche i supermercati, ma il supermercato gli omaggi non te li dà, invece... No, è più difficile. Dici, ma il direttore magari sai. Te punti alto. Comunque adesso vabbè, ci vorrebbe la sigletta triste, però. Cioè, se non ti danno l'omaggio, è normale. No, che siamo a marzo. Sono io il Cirida, però. Il bello che non l'ho neanche detta la battuta. Peccato che non si sono conosciuti prima a sto punto. Fatti due domande. Cioè, il bello che io non l'ho neanche detta la battuta. Cioè, siamo arrivati a un livello talmente che tanto basso che le battute vengono ultimate. Io tolgo direttamente le cuffie e me ne vado. Vabbè, allora, il brano di prima, sempre che non mi dispiaceva per niente. Stavo andando a vedere un po' da dove venivano i tizi, che i crack e smack, ma non ho trovato molte informazioni. No, eccolo qua, vengono da un posto che si chiama Leiden, che non so dove sia. Non lo conosco. Sembra una roba inglese, ma non lo so. Sinceramente, no, non ne ho la più pallida idea. Però già dai nomi. No, però vedi, sono in tour verso New York, quindi immagino con Cerrone. No! Quindi non è che proprio suonano con. Ci picchia! Cioè, non è che suonano proprio con. Gente proprio scarsa. Cioè, forse ai livelli. Cioè, dopo di lui. Cioè, sì, lui ma sembrano tre scappati di casa. Tra l'altro, sono tre, non sono due. Sono crack e smack, ma sono in tre. E lui, forse è lei. Quello in mezzo, il plus. È il plus. È una città olandese. È una città olandese. Città olandese. Olanda meridionale. Pensate, dall'Olanda vanno a suonare a New York. Beh, cioè, non sono nati i vari DJ solo techno trance, ma anche. Va bene. Beh, Cerrone è uno dei più grandi produttori di musica disco anni 70. Vero. Ha fatto dei gioielli. Lui è un batterista, poi. Ha prodotto veramente dei pezzi fantastici. Va bene, andiamo a ascoltare il prossimo brano, che sono sicuro che l'hai scelto tu. Tu. Io. Che ti sto indicando, sì. Hai avuto. Il brano adesso si chiama. Critiche. No, il brano mi piace. Si chiama Sun Hollow. E il brano si chiama Lead Me Back. Sembra un po' tipo Lean Back di. Sai, quello è un po' più rap, no? In realtà il brano è musica elettronica. E anche lui non so di dove sia precisamente. Vabbè, ma l'importante è che la musica no, è buona. No, però ha un calendario strafitto di date, cioè una cosa veramente vergognosa. Non si capisce. E quindi non si sa se di dove sia, però si divide tra Manchester, Londra, Oslo, Copenaghen, quindi viene da dire sempre, Europa del Nord. Prova a vedere se c'è anche Wolf Trips. Vabbè, andiamo ad ascoltarlo, poi mi dirai cosa ne pensi. Where we first met. All I really want is my heart back. Hey, I'm sorry now. I'm sorry. We are fading out. I'm sorry. Tell me what to do. I'm sorry to lead me back to you. Fade my memories. feel fire. Wish I could see things brighter. Wish I could still feel fire. Wish I could see things brighter. Beh, a me non dispiace questo pezzo di San Olo con Lead Me Back. Mi piace, complimenti Cree. Non è grazie, male, non grazie. È male. È una cosa buona la faccia. Sì, no, no, il pezzo non è male. Anche due, dai, dai. Infatti. Comunque no, non sono riuscito. Vuole dire qualcosa. No, era una cagata. Vabbè. Scusate la parola. No, sembra un anagramma di... No, Tony, andiamo, basta. Ciao. Ciao. Ciao. Perché? No, non è colpa tua, è colpa mia. Ah, ok. Scusa. Che ti devo dire? No, oggi stasera non mi sopportano, vabbè. Gli è caduta la battuta. Ok. Sì, infatti. Ah, diciamo così. Sì. Mi sembrava il nome di questo tizio qua, l'anagramma di Ian Solo. È vero, l'ho pensato anch'io. Ah, ecco, Dutch producer, che si chiama Sander Van Dyke. H. San Olo. Quindi è no, Dutch producer. Ma c'è un cognome così stupendo. Cioè tienilo. Van Dyck. Vabbè, Van ma probabilmente per non sfruttare nulla. Non lo sapevo. O magari poteva anche ricevere qualche ma no, qualche cosa negativa. Sì, gli haters sono già pronti. I troll e gli haters. Comunque volevo fare un momento Marchetta. Sì, perché ci ha anche salutato. E volevo parlare un attimino del portale Stay Music, che ogni tanto. Come stai? Music. Poi dice a me, cioè quella è la cosa bella, cioè fa le battute peggiori delle mie. Ci cancella. Sì, infatti in questo momento ci stanno cancellando. Però praticamente è un portale dove puoi ascoltare musica nuova. Forse, nel senso, ci siamo anche noi, quindi potete ascoltare sicuramente musica nuova. Però c'è tante playlist, tanta musica. Secondo me poi la musica, cioè può essere vecchia sia di età, magari di qualche anno fa. Però se non viene mai ascoltata, vabbè, certo, sì, certo. Come era successo con Power of Stellar, la pubblicità della Team, che era un brano che era uscito a milioni di anni prima. Lui era già fermato all'estero. Diciamo che in Italia arriva qualcosa dopo. Sì, comunque stanno dicendo di Stay Music, c'è questo, diciamo, c'è una bellissima tester, diciamo, sulla home page, che ti dice come ti senti in questo momento. Tu metti delle varie risposte. Mi sento che so, in cuffia. Ti senti Mi sento in cuffia. Ok, quindi però non c'è come risposta. Cioè intossicato, oppure se vuoi, non lo so, ti senti meglio la notte o al giorno. Allora scegli delle varie risposte, tipo convenzionale, vuoi ascoltare musica convenzionale o perle rare, ti serve musica per un viaggio fantastico, per i pensieri reali. Fai ascolta la tua playlist personalizzata e ti crea lui una playlist in base alle tue scelte. Sì, beh, uno schema che usano anche vari... Non so come funzioni, però è un bel algoritmo, non è male. Non è male, non siamo è male. Siamo degli algoritmi. Vabbè, niente, il mondo di Isaac Asimov questo. No, poi ricordo che Stay Music è la prima scelta se tu vai a cercare dove trovare canzoni nuove, anche in inglese, l'ho provato ieri, How Discover o How Find New Music. E come prima scelta davanti a tutti c'è Stay Music. Incredibile. Bene, spostiamoci allora un po' nella electrowave. Adesso andiamo ad ascoltare un brano di Mont Mowling. Con il brano si chiama Blaster. Anche di lui stavo cercando qualche informazione. Stasera è sembra difficile. Sembra francese, però dal nome. Hai ragione, Mont Mowling. È francese. È proprio francese. Tra l'altro ha fatto solo questo brano. Quindi spero che sia buono e decente. No, scherzo, dovrebbe essere molto carino. Andiamo ad ascoltarcelo. What you telling me? You wanna make memories? You wanna eat mangoes under a tree and build a couple zoops, get hella deep? Feel my energy. Where are you at mentally? My intuition is telling me go with the feelings, that's true unintentionally. Be a friend to me. I listen when you tell me stories about what you've done, been through in life. Look what you did in your life. When you reminisce, look what you did in your time. I'm just reserved, never shy. Love when you speak from the heart. Love when you smile with your eyes. There's nothing here to disguise. We know the meaning of trust, cause we never built this on lies. Here there's nobody but us, and it's only you on my mind. They might mistake this for loss, but they'll never get how we vibe. vibe. They'll never get how we vibe. They'll never get how we. They'll never get how we vibe. You align in my stars, speaking to you through my art. The stage is really a bypass. You came to me at a point I didn't expect. In my 23 years being here, trying to see more than the ICs. Oceans, here are my seas. God knows I'm a Pisces. To the T, never knew why, but it makes sense when I think about you and I. I've been on the stretch trying to find way more than I was ever taught in life. Make more out of the cards I've been dealt with. We pour rock and cheers to more life. Me being up on results and more eyes. More press, no soul less, but no stress. Oh yes, it's your turn to go next. Help me understand this in context. Help me understand you. More depth, deeper than what you show on the surface. Getting to the core is always worth it. Getting to the truth is always worth it. Need a break from this, I've been working. Only you can fill this space. Oh my God, prophecy upon these bones. We get some light trampolines. One more body got on the road. As it seems, landscape full of greenery. Ain't so pretty as it seems. Summer flowers, autumn leaves. Ain't so pretty as it seems. Ain't so pretty as it seems. Forbidden fruits and golden trees. Ain't so pretty as it seems. Landscape full of greenery. Ain't so pretty as it seems. Summer flowers, autumn leaves. Ain't so pretty as it seems. Ain't so pretty as it seems. Forbidden fruits and golden trees. Ain't so pretty as it seems. Landscape full of greenery. Ain't so pretty as it seems. Summer flowers, autumn leaves. Ain't so pretty as it seems. Ain't so pretty as it seems. Continua il tuo sciopero, quindi? Vabbè, però stai parlando. Se hai detto continua il tuo sciopero, sì, stai parlando, quindi hai interrotto il tuo sciopero. Vabbè, niente, stasera non abbiamo fatto. Stiamo facendo una prima parte di serata molto morbida. Sì, nulla di. Sai che dopo devo dare una. Devi dare una bella scossa. Questo era il brano di Mount Maulin con Blaster. Sì, non è molto electrowave, non lo so, è un po' particolare. I suoni c'erano, forse il cantato un po' particolare, non lo so. Scazzato. Non lo so, era un po' così il brano. Stasera la scelta musicale è un po' strana. Infatti andiamo ad ascoltare l'altro brano dopo, e prima di farci un'altra pausella di pubblicità. E poi entriamo nella seconda ora. E poi entreremo nella seconda ora. Il brano si chiama, è di Ronnie Rex con Mona Lisa. Però vabbè, prima di fare questo volevamo, ci avevano, diciamo, a livello di redazione, comunicato stampa. Ecco, ci hanno detto di... Ci hanno detto, sì, perché ce l'hanno detto, dai. Ce l'hanno chiesto, cioè, sì, non so come vuoi dire. Ma è una cosa da ricordare, sembra che di annunciare. Ma perché non c'entra una molto con spaghettata... Sì, ma non, è la matriciana. Non c'entra molto con Wolf Trips, però diciamo che domani sera si terrà al Teatro Sala Ratti. Se volete. Diciamo, se volete. Al Teatro Sala Ratti di Regnano, alle 17, questo spettacolo Ciao Lucio, che diciamo è uno spettacolo tributo per... Tributo a Lucio Dalla. Sì, in realtà non ho capito se è più anche, non so, un racconto sulla sua storia più che un'esecuzione dei brani. Vabbè, sì, penso che, sia un misto tra i due. Sì, sì. E vabbè. Comunque chi piace Lucio Dalla, ci sono i tanti, a Legnano c'è questo evento. Va bene, boh, basta. E... direi che il nostro compitino l'abbiamo svolto. Non io so, ragazzi, sto guardando qua una cosa fantastica. Sì. Che cos'è? C'è questo qui di 68 anni che praticamente si sta allenando vestito da leopardo. Vestito da leopardo con la coda e va in giro a fare il leopardo. Sì. Per fare il leopardo. Vestito da leopardo, sta scendendo le scale a quattro zampe. Ah, proprio nel senso come animale. Sì, sì. Ah. Sì. Sì, beh, non si muove come un leopardo, beh, però per vivere, diciamo. 68 anni, ragazzi, dico solo questo. Io dico solo che secondo me col cervello, diciamo, non ci sta molto. Infatti. Eccolo qua, guarda. Vabbè, mamma mia. Few things on my list, I said it before, but I must admit. Seems like a lot of you turn your cheek. Don't wanna be political, you wanna talk shit. I got a few things on my list, yeah, I said it before, but I must insist. We have a couple things that we need to that are painful will get dismissed. I got a few things on my list. I said it before, but I must admit. Seems like a lot of you turn your cheek. Don't wanna be political, you wanna talk shit. I got a few things on my list. Yeah, I said it before, but I must insist. We have a couple things that we need to fix. Things that are painful will get dismissed. I got a few things on my list. Yeah, I said it before, but I can't resist. I see that a lot of you posting pics. Are you trying to be edgy? You're trying to be legit. Non so dove farla smettere di cantare, questa tizia qua continua a cantare. No, però il pezzo mi piaceva, un po' tamarrino, ci stiamo un po' riprendendo, dai. Vabbè, in stile un po' come Wolf Trips, dai, siamo quelli della roba tranquilla, della roba un po' così. Sì, è uno di quei party anche universitari, sto pezzo. Sì. Sembrava un brano tipo di quei brani che stanno andando ultimamente, tipo Buddy Rocks. Non so se ti ricordi la canzone. Sì, la, il cantato. Un po' anni fa, sei rimasto un po' indietro. Vabbè, io sai che con la musica elettronica sono un po' così, nel senso, quello che trovo mi piace, poi magari sì, è di sette anni fa, quello però. Che ti dicevo prima, un pezzo non... magari per me è nuovo, poi in realtà non lo è. Comunque ho visto il video, abbiamo visto il video del tizio, tu non l'hai visto, che praticamente fa fitness imitando il leopardo e poi dice che le mie battute sono brutte, cioè quello che mi domando io, quello che dico io. Cioè le mie battute sono brutte, però il tizio che fa il fitness con il leopardo è figo. No, io ho detto che è una roba strana, cioè a chi non capita di vedere uno che si allena in giro per la città. Però tu pensa, cioè tu dici che lui non è strano che fa queste battute. Infatti è una normalità, esatto. Però stavo dicendo, tu pensa, ormai, questo qua era vestito da leopardo. Tu invece pensa che ci sono le persone che sono tatuate quasi completamente a macchie, tipo quasi una, il 98% del corpo. Una Lamborghini? Mi sembra che c'ha una parte tatuata. La gamba. Una parte, no, ci sono proprio persone. Al 98%, al 98% sono tatuate. Oppure, non so se avete visto quando c'erano i vari talent. Una cosa che mi piaceva vedere era che ci sono ancora adesso. Sì, vabbè, lascia stare. Io utilizzo i verbi, li utilizzo così. Oggi c'è un po' di labirintite, quindi mi perdo un po' il giorno, la notte. Quindi magari è possibile che stasera stia sveglio. Ma stasera dobbiamo stare svegli perché sarà lo sbarco sulla luna. Eh sì. Dobbiamo guardare la luna per vedere se c'è qualcuno. Beh, comunque stavo parlando di vari talent, perché c'erano quei fenomeni da baraccone che ogni tanto saltano fuori, no? E ce n'era uno che, a parte essere tatuato quasi completamente a mo' di lucertola, aveva tipo anche delle cornine impiantate sotto pelle. Ma lo ricordo. Si chiama Lizard così. Qualcosa. È abbastanza anche famoso. Io non so come faccia a vivere. Qual è il suo tipo di vita? Cioè, proprio la sua vita non. C'è non anche un nome, quel tipo di plastica, comunque di. Sì, ma è comunque impiantato sotto. Sì. Dei no, ma anche varie altre cose. Cioè, vabbè. Tra l'altro, a proposito di lucertole, stavo leggendo le 10 cose incredibili trovate nei bagni. Un'iguana. Si è trovato un'iguana in bagno. Ma lo diceva anche sai chi? Mauro Picotto. Andiamo ad ascoltare dopo il prossimo brano. Infatti, andiamo ad ascoltare il prossimo brano, che è di Mod Selector, un gruppo di DJ. Ah, Mod Selector si chiama. Sì. Un gruppo di DJ molto, molto bravi, molto interessanti. Flow. Selector things, yeah. I mean, London to Berlin. Flow. Show them what's good, man. Deck. Got shows on deck, cause I really wish well. When I heard your name, still doesn't ring bells. This is wealth, and I don't mean cash money. My sons make sure that I feel well. Don't tolerate nobody talking to me, you nobody know yourself. Move in silence, you can't watch me shut down. The shows that the time will tell. Flow. Figure this out. Return light, better sort things out. Love my sound, got the shit right here. Really saved my life, and the soul's like crack. I don't care who you think is next. These days, everybody wanna be next. Find my space outside of earth with Mod Selector, causing hell. Yes, I show for gang, cause I brought them here. What's here do I need to fear? Put my life on the line, cause I told myself I'ma do this shit till I'm dead. They call me the plug at the end. Somehow I still find a way to pretend. Humble self, but I gotta smash some wealth. On the way they can know me well. Yes, I show for gang, cause I brought them here. What's here do I need to fear? Put my life on the line, cause I told myself I'ma do this shit till I'm dead. They call me the plug at the end. Somehow I still find a way to pretend. Humble self, but I gotta smash some wealth. On the way they can know me well. Now flow got cheese and the baby got bread. Send my voice to Berlin, let the kid get heard. Oh, you scared? Yeah, I've been there. If I never went first, then I wouldn't be here. I can't trust you, man, you don't write for man. If I put hands out, you might pull that out. Flow, watch out, mouse, so I get love back. That's the emoji with a grin heart. Feel the spark in my eyes, still blazing around. In my town, they be calling me the I'm just trying to put it down. When my daddy been around, who else do I turn to now? Everybody wanna get that money really quick, but nobody checking for fun. I don't like much crowds when I'm not out more time. I just pen more pad, turn this bus to sign. Get mom a brand new house, still the plan. Put up. You know the future look bright. Yes, I show for the gang, cause I brought them here. What's here do I need to fear? Put my life on the line, cause I told myself I'ma do this shit till I'm dead. They call me the plug at the end. Somehow I still find a way to pretend. Humble self, but I gotta spend some wealth. On the way they can know me well. Yes, I show for the gang, cause I brought them here. What's here do I need to fear? Put my life on the line, cause I told myself I'ma do this shit till I'm dead. They call me the plug at the end. Somehow I still find a way to pretend. Humble self, but I gotta spend some wealth. On the way they can know me well. Yes, I show for the gang, cause I brought them here. What's here do I need to fear? Put my life on the line, cause I told myself I'ma do this shit till I'm dead. They call me the plug at the end. Somehow I still find a way to pretend. Humble self, but I gotta spend some wealth. On the way they can know me well. Who else but Selector? Adios. Wall Streets, alla ricerca delle hits del futuro. Let me go talk to the DJ. Well, I'm out of here. Excuse me, Mr. DJ. Yes? Could you play something with a beat? What do you mean, something with a beat? You know, something I could dance to. Jumping as it can be. I came to get this party live. Are you with me? I came to start the party, cause I'm the party starter. So if that beat ain't knocking, let's get it knocking harder. Boosters. Sì. Eccoci. Siamo tornati in onda con la nuova gestione qui a Gallarate. No, scherzo. Vabbè. Quindi siamo tutte sotto di te oggi. Tutti. Perché c'è anche un maschio. Livello basso. Perché la mia altezza è quella che ha. Io non so. Cosa dici? Cosa vuol dire? No, dai, ma vedi che pensi male. Ma no, non è che penso male. Vedi chi è lo zozzone? Ma no, non è questo, no. Ma non sta dicendo niente. Vabbè, comunque il brano era molto bello, però non, grazie, mi ricordo come si chiama. E vabbè, niente, l'abbiamo perso per sempre. Vabbè, che genere era, Tony, secondo te? Lascia stare il titolo, poi dopo lo recupereremo. Io penso che playlist. Si chiami Electrofunk. Ah sì, è vero. Diciamo, è vero. Quello. Però è ci bello sta. Cioè, da dove l'hai selezionati questi? Posso dire la fonte? Sì. Adesso non mi ricordo. Sembri un po' Adam Cadmon così. Perché? Posso dire la fonte. Posso dire. Allora, la fonte arriva da Hit Parade Italia, che è un sito per chi ama tutte le classifiche musicali degli anni 50, 60. Ma è EAT o Hit Parade? Sembra che Hit, no Hit. C'è un sito EAT Parade anche, cosa del genere. Tipo mangia la parade. Cibo? Sì, è vero. Ma cibo, Hit vuol dire? Cibo. Io no. Ci sento parlare di cibo. E vabbè, è un sito dove ci sono tutte le classifiche musicali negli anni 50 adesso. Anche divise per album, singoli, e oltre alla classifica ufficiale dei 100 singoli più ascoltati o più venduti in Italia, c'è una sezione che si chiama la hit parade che non c'è. Cioè, sono dei brani che uno può anche selezionare, o altri brani che loro propongono che non, ancora non entrano in classifica, oppure sono molto particolari. Quindi rientrano un po' nello stile di Wolf Trips, perché sì, è musica troppo conosciuta. Ecco, musica da scoprire. Sono tutti i pezzi già che sono venuti su iTunes e varie cose. Sì, sì, ok, ok. Cioè, non è solo net label, però pezzi che nelle nostre radio faranno fatica. Bene, bene, bene, bene. Allora farò una selezione. Facciamo un po' di selezione. Mettiamo sempre un po' di roba che non si sente da altre parti. Giusto, giusto, mi piace. Tony mi piace. Selection, questo. Sì. Infatti la cartella dove io ho messo le brani si chiama proprio così. Tony Selection. Viva la fantasia. Seletoni. Selectoni, io l'avrei chiamata Selectoni. Potremmo chiamarla Seletoni. Ma il mio nome ci sta bene con tante cose. Sì, infatti. Reggaetoni, queste robe qua. Sei universale. Intanto volevo salutare. Ah, no, dimmi, poi dopo faccio un saluto. Volevo spoilerare il secondo... Giusto. Aspetta, ripeti cosa stanno dicendo. Stai dicendo le 10 cose più strane, più strane, incredibili trovate nei bagni. Ok, vai con la seconda. Prima o dopo mangiato? No, vabbè. Non lo so perché non c'è scritto l'orario. No, questo prima di andare a messa, quindi sì. Pensiamo sia mattino, no? Dipende dalla messa, cioè. Infatti. Un po' neanche. Però in teoria 18. È al mattino, potrebbe essere molto probabilmente al mattino. Questi qua hanno trovato uno scoiattolo. Dove? Dentro nella al gabinetto. Ah. Dentro al gabinetto. C'ha i suoi bisogni da fare, che devi fare? Va bene, dopo andiamo avanti con ci svelerai le altre robe interessanti che già vedo dalla tua faccia della notizia radiofonica. Vero. Della settimana. Sì, sì, ne parliamo dopo. Lanciamo il prossimo brano. Di chi è che? Rosie Murphy. Che anche Fede, sembra da mangiare tu parli stasera. Let Me Know è il titolo. Va bene, dai, andiamo ad ascoltarcelo allora. A stranger in a strange It's a beautiful dream. It's a beautiful life. It's just a reflection, a world that must survive. We're children of the past. Look beyond today, designing the present. So when is the future? We live in a dream, keeping visions alive. It's just a reflection, a world that never dies. The image we create, in our image we design. It's a beautiful life. So when is the future? Allora ragazzi, cosa vi pare? Bella, bella, mi piace, molto. Grazie. Carica, molto. Stai scegliendo bene, dai. Ma come gongola. No, vabbè, vai avanti così. Per il DJ la selezione è la cosa più importante. Sì, infatti. Allora, vi siete messi in tre contro tre uno. Tre contro uno. Vabbè, diciamo due e mezzo. Basta. Vabbè. Mannaggia. Vuoi passare all'altra posizione della tua classifica? Sì, la sto proprio guardando. VC, World Champion. Mamma mia, tra l'altro ho mangiato. Sì. Stiamo guardando questo video, praticamente al terzo classificato dentro alla toilette. Sì. C'è questo serpente enorme. 7 metri di serpente, no, non so quanto è lungo. E questo dove è stato trovato? Dentro al gabinetto, sì, che ma è risalito dall'impianto no idraulico. Ma c'è scritto il posto del mondo, Thailandia. Beh dai, lì sarà l'ordine del giorno. Però aveva mangiato perché era gonfio in alcune parti, quindi non ha digerito bene e non è andato in bagno. Il posto era quello giusto. Vabbè, possiamo parlare anche di altri argomenti oppure... Ma parliamo di qualcosa di un po' più serio, dai. Dai, dico un'altra... Sì, un'altra così poi dopo mandiamo la pubblicità. Diciamo. Va bene. Eh sì. No, è no, stato trovato no. anche... La mandiamo dopo. È stato trovato anche un cucciolo di opossum. Piccolo. Povero, sì. Cos'è l'opossum? Opossum, ho capito che è un animale, ma che... È un'alternativa. La vera, unica alternativa, Radio Lupo. C'è anche nell'era glaciale. Ah, è una sorta di cavia un po' più grossa. No, di cavia, beh, scusami, di nutria, ecco. Nutria. Sì, una specie di nutria. Sì. Vabbè, questo... ma gli animali è normale trovarli nel bagno. Cioè, si sa da quando ci sono dei film tipo anni 80 che si trovano i coccodrilli, si trovano... Questo è successo in Australia però, eh. Gli squali nella vasca, no, film anni 80, non avete mai visto? Squali nella vasca. Sì, quello lo teniamo per dopo perché... I famosi coccodrilli di New York. I coccodrilli di New York, c'era la leggenda, no? Vero. Sì, è vero. Va bene, dopo queste bellissime cose. Ma dopo abbiamo le hit, le chicche più. Ah, vabbè, poi possiamo anche parlare anche dopo anche di qualcos'altro. Sì, di sì, più. infatti. Vabbè, allora adesso mettiamo la pubblicità, poi rientriamo. Ma non c'è la pubblicità, ma te si sei fissato. Io lo vedevo da là in fondo che non c'era. Dici? Vabbè. Strano. Vabbè. Possiamo, vabbè. Beh, parliamo allora dell'argomento che avevano già tanto tutti consumato. Allora, visto che tanto consumato, ne parliamo dopo. Dai. Allora, mettiamo un pezzo. Va bene, bravissimo. Sei cattivo, però. cattivo. Sì, stavo guardando l'immagine di questa cantante che si chiama Netta. Il brano si chiama Bassa Sababa. Sababa. Che sembra più effettivamente africano, più in realtà è sì, tipo cinese, chi lo sa. Poi lo spot ricorda vagamente un Grace Jones degli anni 80, di uno spot della Peugeot, mi sembra. Sì, sì. Della sì. Citroën, della Citroën. Sono ricordati, andatevelo a vedere. No, perché niente, non me lo ricordo, no, la verità. Non è qualcosa che mi sovviene in questo momento. E io c'ho una cultura pubblicitaria mica da ridere. Ecco perché la vedo sempre la pubblicità. La voglio sempre mettere. Beh, allora pubblicizza l'informazione che stavi dicendo prima. Allora, praticamente dopo 34 anni mi sembra, dal 1984 il famoso DJ Albertino di Molfetta. Mm-hmm. Lascia Radio DJ, in parte lascia Radio DJ, per andare su M2O, che già dalla fine dell'anno scorso è diventato direttore artistico. Dunque sceglierà tutta la programmazione musicale e queste cose qua. Vabbè. Diciamo, allora, è una radio concorrente, tra virgolette. Sì, ma a me viene un po' così. Però è strano, effettivamente, è una notizia un po'. Allora, lui dice che metterà tutta la musica che riguarda la dance, dunque anni 90, trap, reggaeton, quello che vuoi. E ha messo due o tre nomi di persone che faranno parte dello staff, tra cui Walter Pizzulli, che è il famoso DJ di Disco Radio. Albertino ha fatto la descrizione di M2O come sarà una radio di flusso con pochi interventi e tanta musica. Dice che sarà è l'unica stazione radio dance che ancora adesso non c'è. Non è vero. Ecco. Ma io ho pensato che ha rubato proprio Walter Pizzulli perché Disco Radio ha una bella fetta di mercato in Lombardia, 500.000 di ascoltatori, portandosi lui, diciamo che ha fatto una bella furbata, secondo me. Vabbè, vedremo. Comunque vabbè. M2 era già una radio di flusso, cioè non è che aveva chissà quali programmi. E ultimamente vabbè, comunque lui rimane sempre a Radio DJ facendo la sua classifica, il DJ Parade, però vabbè. Adesso vedremo cosa porterà di nuovo. Ok. Lui dirà qualcosa che non si sentirà neanche in Italia. Ma stavo leggendo qualcosa sul prossimo brano. Ma quanta gente c'è dentro? Cioè, quanti sono? In quanti stanno? Non lo so, guarda. Però è un bel pezzo diverso da tutti quelli che abbiamo sentito. Half-Light si chiama. George Fitzgerald. Yes. Fitzgerald. Un presidente degli Stati Uniti. Quasi. programma è in collaborazione con stymusic.com. Radio Lupo Solitario dal 1979 ti regala emozioni rock. Pubblicizza la tua attività e cresci insieme a noi. Un nostro consulente è a tua disposizione al 349-7731-166 oppure scrivi a commerciale@radiolupo.it. La tua pubblicità su Radio Lupo Solitario. Marengo è musica, immagini, sport ed è tutto ciò che alimenta le nostre passioni e rende più piacevole il tempo libero. È anche il luogo ideale per ritrovarsi e condividere momenti di vera evasione e divertimento. Marengo Live Music è a Gallarate, in via Olanda 5, nella zona industriale. Tutte le info sui social e cerca la nostra pagina Facebook Marengo Galla. Ah ragazzi, non mancate, ci vediamo al Marengo Live Music. C'è un ristorante pizzeria in provincia di Varese specialista nell'organizzare eventi unici nel suo genere. Non sai come si chiama? Ma te lo diciamo noi. È il The Green Door di Ierago con Orago, dove potrai assaporare i migliori salumi, formaggi nostrani, assaggiare le gustose burrate e le buonissime pizze, il tutto accompagnato dalle migliori birre. Ma non finisce qui. Solo da noi troverai lo gnocco fritto più buono della Lombardia. Allora cosa aspetti? Vieni a trovarci a Ierago con Orago in via Milano 1, dove l'ospitalità di Fani ed Ivan non mancano mai. Seguici su Facebook oppure contattaci al 340-7218-414 oppure al 339-1832-814. The Green Door. Apri la porta al gusto. Wolf Trips. Un viaggio alla ricerca della musica del futuro. I'm not afraid to Rientriamo dopo la pubblicità. Ho finalmente potuto fare un ingresso dalla pubblicità serio, perché sto solo parlando stasera. È vero, stasera sei in edizione diversa. E avevo riconosciuto un pochettino il genere di Buca Shake. Sì. Infatti si sente che è suo. E il brano si chiama I Go, come effettivamente si sentiva nelle poche parole dette. Ed era di Undercut Remix. Ed è un brano, dai, possiamo dirlo, techno, tech house. Sì, quest'anno credo che la techno sia... Anzi, è l'anno della techno. Sì, questo è più mischione col tech house, dai, più che techno pura. Però non è male, mi dispiace. Ho visto... No, ma anche radio come M2O, sento pezzi techno che stanno diventando più commerciali. Sì. Va bene. Allora, facciamo così, continuiamo col prossimo brano. Caspita, siamo già quasi alla fine. Dici? Bello. C'è qualcosa che non mi quaglia. Ah, è perché tu hai questo vizio. Devi tirare su lo scroll. Ecco perché dicevo, com'è possibile che siamo già alle 21:52? Il tempo passa. Vabbè, andiamo a ascoltare questo brano di Crooked Man. Tra l'altro mi sono già sentito qualcosa di suo. Diciamo che il genere è come quella di prima, ecco. Devo andare un po' sulla techno. Adesso, mentre ascoltiamo questo brano che si chiama This Machine Kills Me, vado un po' a informarmi su chi è, perché sono sicuro di aver già sentito qualcosa. Andiamo a sentirlo. Let me be. stavo cercando qualche informazione su questo Crooked Man. Lui viene da Sheffield ed era, militava in un duo che si chiamava Sweet Exorcist. Ma che è vabbè. Sweet? Infatti Dolce Esorcisti, non lo so come lo potremmo tradurre, non lo so. Sì. Beh, anche la canzone che si chiamava This Machine Kill Me, però lo diceva molto soft. Eh? Era sweet. Era sweet. Molto sweet. E comunque sì, effettivamente partiva un po' più techno e finiva un po' più dance rage. Non era male. Sì, stasera... Ma forse perché c'ho... Ah no, pensavo di avere la maglietta nera ma non ce l'ho. No, perché sto mettendo pezzi abbastanza techno. Ah, okay. From Berlin. Però no, io sono colorato. Non sei Berlin. Non sono Berlin, sono Pirlin. Ma quindi quello altre sicuro. Cose che sono state trovate all'interno di un bagno, visto che volevamo, sta finendo questo discorso, ormai finiamolo. Wow. Cioè, una cosa. No, quella sotto mi piaceva. Ma volevo dirlo. Ma dopo. Sotto andiamo, la tazza. Andiamo sotto in il bidet. In diciamo zona Cesarini. Minchia, scusate la parola. Andiamo in crescendo di assurdità, vabbè. Comunque, questa qua in Alaska, una signora in viaggio di nozze ha smarrito la sua pistola e l'ha dovuta recuperare dentro il water. Che bel viaggio di nozze. Beh, perché poi, non portarsi perché, una pistola? Perché porti la pistola in viaggio di nozze? Vabbè, ma per loro secondo me... Voleva già diventare vedova e penso che abbia avuto le sue buone ragioni. Ma tanto poi sotto il ghiaccio chi lo trovava più. Ma mi piace un casino la descrizione. Torna giù. Praticamente dice: la donna ha detto che si era fermata per usare il bagno durante una lunga giornata di fotografie di nozze, quando la sua pistola è uscita dalla fondina mentre usava la toilette, finendo in mezzo ai liquami. C'è anche chi ha scritto questo articolo, diciamo che direi più ci ha sguazzato dentro, ecco. Una scaccia merda, direi. È vero. Comunque un'altra invece praticamente qua siamo in non si sa in bagno scritto. Sicuramente in un bagno praticamente sì. C'era questo postino del diciamo corriere che ha avuto la brillante idea di mettere il pacco dentro una finestra. Sì, come però non tanti. Ha calcolato che sotto la finestra c'era il gabinetto. Ah. E il pacco è finito proprio ha fatto canestro diciamo nel centro del gabinetto. Beh, fantastico, cioè almeno cioè, 100 punti solo per canestro. Lui invece invece di suonare due volte ti ha tolto due volte, anzi meno male che non l'ha fatto, sennò vabbè dai. Che cosa volete, dai, dopo leggiamo. Però gli ha scritto un biglietto sulla carta igienica, un biglietto con scritto: mi dispiace veramente, penso che il tuo pacco potrebbe essere caduto accidentalmente nel gabinetto. Vabbè, era anche colto, diciamo, era una... Sì, beh, bisogna... Vabbè. Vabbè, teniamoci per dopo le ultime posizioni, quelle un po' più calde, più strane. Va bene. E andiamo a ascoltare il prossimo brano. Cos'è che ci fai ascoltare? Beh, è un pezzo che tu volevi già mettere, non so, già conosci. Sì. Miss You è il nome dell'artista. La canzone si chiama Red Drugs. Andiamo a sentirlo. Everybody does drugs. I can't get rientriamo, ragazzi. C'è questa voce tranquilla, diffondi tranquillità nell'aria. Sì, cioè che sono un diffusore. Diffusore da bagno. Basta che non diffonda altre essenze, perché sennò... diffusore, diffonde. No, ha detto una... Di solito il diffusore diffonde essenze, no? Lavanda, dipende. Sei un tranquillante. Sì. Diciamo che sono una fragranza tonica. Un tranquilla Tony. Beh, andiamo avanti con le cose curiose del bagno, perché ormai siamo alle battute finali, abbiamo le ultime cose da dire. Ce n'erano alcune, cioè, molto diciamo divertenti. Che la parte finale, che di solito è di questo programma, l'abbiamo allungata per le due ore. Questa puntata è così. Sì, ma dai, ci vuole. Sempre seri. Vai, adesso parliamo di incessi mobili. Sì. I famosi cessi chimici. Sì. Andiamo in Oregon. Ma cessi, poteva dirlo in un'altra maniera. Sì, infatti. Vabbè, come li chiami? Gabinetti. Gabinetti chimici. Gabinetti mobili. Vabbè, quelli che ogni tanto vedi anche passare in autostrada. Dici, ah, sto portando un cesso chimico. Non ti è mai capitato? Sì, no. Tutti i giorni. No, a me no. Non hai mai preso l'autostrada allora? Sì, però non come te, però. No, a me capita spesso. Va bene. Comunque andiamo in Oregon. Praticamente questo signore ha aperto questo bagno chimico e ha trovato dentro una serra di marijuana. A vedere le foto sembra più, che ne so, tipo un enorme cespuglio. Ma più di uno, perché vedi qua che ne sta portando due. Se l'è fregata anche due, sì. Tre. La domanda è la domanda, la piantagione. La domanda è, chissà che concime hanno usato. È cresciuto naturale. Bene. Direi. Vabbè. Sempre parlando di bagni chimici. No, questa è bellissima. Un'altra, questa è stupenda. Praticamente, ascoltala bene. Qua siamo in... Allora, è a Budapest dove si tiene il Seedgel Festival, che è molto famoso. Seedgel Festival. Questa volta te l'ha detto giusta lei. Vabbè, tanto non l'avrei detta giusta comunque. Cioè, lei cambiava molto. Quindi tanto vale. C'è anche il video. Ci sono una serie di bagni chimici. Sai, uno apre quando vai la porta festival. A caso. E c'è dietro la porta c'è un rave party, c'è una festa segreta. Cioè, praticamente in uno di questi bagni chimici c'è un tunnel, un piccolo tunnel che ti porta in una stanza dove c'è una festa segreta. Figata! È bellissimo, è bellissimo. Wow. Non la sapevo, è veramente Ma il Siege Festival è cambiato molto negli anni, mi hanno detto che da festival rock è diventato un festival elettronico. Sì, elettronico. Però con rave all'interno del bagno. Bello. Deve essere bello quel... Questa mi è piaciuta veramente. Dovremmo andare al Seedgest Festival. Potrebbe fare. O ai bagni chimici. Sì. C'era la canzone che diceva... Cos'è il rumore chimico? Quella roba lì. Dice che si riferiva a questo? Eh sì. Va bene, pensa, dai. Uno che gli scappa veramente. C'è tanta... No, c'è rave. Non caghi, non parti. E vabbè, dai, dopo queste bellissime cose direi che ci teniamo le ultime due posizioni per dopo. Andiamo a ascoltarci il prossimo brano, che è Von Cell con Shine a Cry. Senti che pronuncia. Porca miseria. Inside, I can't feel you, but I feel what you do to me. God help me, I can't feel a thing in my bones, but I'm empty. Just fill me up, I need a home, love. What you need me to leave? I can't lose myself again. You see, 'cause when it's cold out, not equipped, I can hardly recognize myself. We seem to be content avoiding disaster, and our minds shine losing down. It seems a little gone. I wanna know what it's like. E questo era Von Cell, che stavo guardando un pochettino da dove veniva, chi era, perché mai. E lui ha pubblicato questi brani nel 2016 ed è di Berlino. E perché mai? Perché mai? Perché gli piaceva e soprattutto perché aveva influenze come Stevie Wonder, MGMT e James Blake. Pensavi di trovarmi incastrato su James Blake, non so dove, però vabbè, influenze, poi non è che sì, la stessa febbre ha preso, bravo, dipende poi quanto ti prende l'influenza, può essere suina, cinese, cioè. Vabbè, torniamo al discorso a proposito di Cina. Praticamente qua passiamo alle turche. Questa donna era rimasta intrappolata, i vigili del fuoco hanno dovuto tagliargli la gamba. Oh. Perché era rimasta, gli era scivolata la gamba dentro alla turca. Questa gamba praticamente è andata a finire a Guangzhou e praticamente l'hanno liberata lì in un altro gabinetto. Praticamente pensate, questa gamba che viaggiava per tutte le fognature è finita in quel gabinetto. È davvero brutta questa cosa. Che schifo. Tu pensa, mamma mia. Povera però donna. Alla numero uno. Oh, ecco, almeno finiamo. Però effettivamente questo è proprio da un numero uno. Questo è il numero uno. Se la merita. Beh, può succedere a tutti comunque di perdere il cellulare, no? Nel bagno. A chi non succede? Io ne ho rovinati due, dunque. Ecco. Un paio. Ecco. Però sicuramente non avrei qua fatto andiamo così. A Drammen in Norvegia. Un Drammen. Ho fatto proprio un Drammen. Ecco, praticamente questo uomo ha perso il cellulare del suo amico. Aia. Cosa ha fatto? Visto che lui ha visto che era magro, si è infilato dentro al gabinetto. Da che parte si è infilato? In che senso si è infilato? Era abbastanza magro per scendere, ma non era abbastanza magro per risalire. Cioè, ma il buco di questo gabinetto no, com'era? No, è diverso, secondo me sono diversi, no, dai, sono diversi nostri. Dai nostri. Immagino, italiani. Cioè, veramente poi altro che Trainspotting, cavolo. Ma è ancora vivo? Sì, perché dopo ha scritto, si chiama Bernsten Larsen, a 20 anni. Io dico, qui ci sta proprio a pennello, nel momento del bisogno gli amici ci sono. E fanno pure lavori, diciamo. Anche il bisogno. E ha detto che ero in panico perché odio lo spazio chiuso. È stato disgustoso. Beh, bello. Ma cos'è? Un monolocale questo? Cioè, la peggiore cosa che abbia provato. C'erano anche animali dentro. E io mi chiedo quali. Cioè, ma quali? Ma adesso quali animali? A questo ragazzo. Io lo inviterei su Wolf Trips per sapere il suo viaggio mentale. Questo è successo in Norvegia. Norvegia, Drammen. Dobbiamo guardare Drammen. Questi bagni norvegesi. Vabbè, mettiamo ultimo. Sono intervenuti questi vigili del fuoco a recuperarlo. Mi fa ridere la parola fuoco qua proprio. Va bene, dai, mettiamo l'ultimo pezzo della serata e poi dopo ci sentiamo. Salutiamo! Con la sigla. Vabbè. I viaggi del lupo. E siamo arrivati alla fine, ragazzi. Oh, nessuno che mi caga, vabbè. Sì, già, sì, sono sì. già passate due ore. Sì, due ore. Oggi è volata, sì. Dai. In quattro, però, sì, sembrava di essere in dieci. Il casino che abbiamo fatto. Beh, settimana scorsa eravamo in tanti, anche è stata una bella puntata. È vero, è vero. Ci mancano gli ospiti. Sì, infatti. Settimana prossima ci sarà qualcuno? Allora, non lo so, perché sto organizzando le prossime interviste. Okay. Sicuramente se non c'è nessuno da intervistare avremo comunque qualche... news da dare. No, più che news faremo qualche approfondimento su qualche net label, visto che oggi siamo stati un po' latitanti da quel punto di vista. Sì, siamo stati più tranquilli. Mi ha fatto una puntata un po' diversa. Demenziale. Sì. Anche. Ci vuole, ogni tanto ci vuole. Ah, dai, che sennò tutti così. Comunque stavo leggendo... Ancora! Senti, che il telefono l'hanno preso, l'hanno recuperato. Che bello. Wow. Funzionava? Questo non c'è scritto, però. Non è dato a sapere. Vabbè. Ma l'amico funziona ancora? Ha detto che era in buona forma quando. Dipende qual è il tipo di forma. Bisogna vedere che come sono questi bagni. Io non so cosa c'è dentro. Va bene. Facciamo i vari nostri saluti. Salutiamo chi ci ha visto dalla diretta Facebook, chi ci ha ascoltato. Ho visto che voi avete qualcuno da salutare. Io voglio salutare le varie collaborazioni che abbiamo: Stay Music, Indie for Bunnies. Poi abbiamo Viva Meg, che saluto Vincenzo. E la radio, le due radio. Abbiamo la collaborazione con Radio Bocconi, probabilmente che partirà. E che poi bello. Radio Stella e Radio Vanessa. Tre radio, okay. Ho fatto tutto, ce l'ho fatta. Yes. Poi salutiamo Katia e Sara, che sembra tipo Paolo e Chiara. Detto così. Io saluto Fabio. Fabio, sì. Ciao, Fabio, che è vero. Stasera non si è fatto. Potevamo chiamarlo, porca miseria, si è dimenticato. Vero. Va bene, direi che ci sentiamo settimana prossima, okay. E noi ci andiamo a mangiare, perché è ora. Va bene. Ciao.